La mente della signora Shaw era confusa da un leggero conflitto tra la comodità e un senso di matronale protezione. Ma quel giorno vinse la prima e, raccomandandosi in ogni modo che stesse attenta e che non si prendesse la febbre, sempre in agguato in posti come quelli, la zia consentì a Margaret di andare dove era stata tante volte in passato, senza la minima preoccupazione e senza alcun permesso. Nicholas era fuori, in casa c'erano soltanto Mary e i bambini. Margaret si biasimava per non aver calcolato meglio l'ora della visita. Mary lo intuì e si dimostrò affettuosa e cordiale, ma nell'istante in cui capì quale fosse il vero scopo della visita della signorina Hale, iniziò a piangere e a singhiozzare con così poco ritegno che Margaret trovò inutile dire una delle mille piccole cose che le erano venute in mente mentre si stava recando lì in carrozza. Riuscì soltanto a confortarla un po', suggerendo la remota possibilità di rivedersi, chissà quando, chissà dove, e pregandola di dire a suo padre quanto avrebbe desiderato che fosse andato a trovarla la sera dopo il lavoro, se avesse potuto. Mentre stava uscendo, si fermò e si guardò attorno. Esitò un po' prima di dire: «Mi piacerebbe avere qualche piccola cosa in ricordo di Bessie». La generosità di Mary fu subito pronta. Che cosa potevano darle? E mentre Margaret stava scegliendo una piccola comune tazza, ricordandosi di come fosse quella che Bessie teneva sempre accanto per bagnare le labbra secche, Mary disse: «Oh, prendete qualcosa di più bello, quella è costata solo 4 penny». «No, è perfetta, grazie», disse Margaret, e se ne andò di corsa, mentre il viso di Mary si illuminava per il piacere di aver avuto qualcosa da dare. «E adesso, dalla signora Thornton», pensò tra sé e sé, «va fatto». Tuttavia pareva piuttosto rigida e pallida al pensiero e fece una grande fatica a trovare le parole esatte con cui spiegare a sua zia chi era la signora Thornton e per quale motivo doveva andare a salutarla. Margaret e sua zia, perché la signora Shaw non ebbe problemi a scendere a Marlborough Mill, vennero fatte accomodare in salotto in cui il fuoco era stato acceso da poco. La signora Shaw si avvolse nello scialle, tremava tutta. «Che stanza gelida!» disse. Dovettero attendere un po' prima che la signora Thornton entrasse. In cuor suo si era in qualche modo addolcita nei confronti di Margaret, adesso che si sarebbe allontanata del tutto dalla sua vista. Si ricordava del suo carattere, che aveva mostrato in varie circostanze ben più della pazienza con cui aveva sopportato lunghe ed estenuanti preoccupazioni. La sua espressione era più mite del solito quando la salutò. C'era persino un velo di tenerezza nei suoi modi quando notò la faccia bianca e gonfia di pianto e il tremolio nella voce che Margaret cercò in tutti i modi di rendere ferma. «Permettetemi di presentarvi mia zia, la signora Shaw. Lascerò Milton domani, non so se ne siete al corrente, ma volevo vedervi ancora una volta, signora Thornton, per scusarmi del mio comportamento l'ultima volta che ci siamo viste e per dirvi che sono sicura che le vostre intenzioni fossero buone. Ad ogni modo, c'è stato un grosso malinteso fra noi». La signora Shaw pareva estremamente perplessa per le parole di Margaret. «Grazie per la bontà e scuse per la mancanza di buone maniere». Tuttavia la signora Thornton rispose: «Signorina Hale, sono lieta che mi diate ragione. Non ho fatto nulla di più di quello che reputavo essere il mio dovere nel rimproverarvi come ho fatto. Ho sempre desiderato fare la parte dell'amica con voi. Sono lieta che mi diate ragione». «Inoltre», disse Margaret, arrossendo eccessivamente mentre parlava, «mi renderete giustizia. Crederete che non ho agito nel modo indecoroso che avete inteso, sebbene io non possa, non voglia dare alcuna spiegazione del mio comportamento?» La voce di Margaret era così sommessa e i suoi occhi così supplichevoli che la signora Thornton fu questa volta colpita dal fascino di quei modi dai quali fino a quel momento aveva dimostrato a se stessa di essere inattaccabile. «Sì, vi credo. Non parliamone più. Dove andrete ad abitare, signorina Hale? Ho saputo dal signor Bell che avreste lasciato Milton. Non vi è mai piaciuta, vero? Lo sapete bene», disse la signora Thornton con una sorta di sorriso arcigno. «Ma nonostante tutto, non aspettatovi che mi congratuli con voi perché la lasciate. Dove vivrete?» «Da mia zia», rispose girandosi verso la signora Shaw. «Mia nipote abiterà con me in Harley Street. È quasi come una figlia per me». disse la signora Shaw, rivolgendo a Margaret uno sguardo affettuoso, e vi sono infinitamente grata per tutta la gentilezza che le avete dimostrato. Sia a voi e a vostro marito capiterà di venire in città, mio figlio e mia figlia, il capitano e la signora Lennox, sono certa che si uniranno a me nel desiderio di fare tutto quanto in nostro potere per accogliervi nel migliore dei modi. La signora Thornton pensò tra sé e sé che Margaret non si era affatto preoccupata di informare sua zia sul tipo di parentela tra il signore e la signora Thornton, ai quali la raffinata signora stava offrendo la sua gentile protezione. Così rispose brevemente: «Mio marito è morto, il signor Thornton è mio figlio. Non vado mai a Londra, perciò non credo che mi sarà possibile approfittare delle vostre cortesi offerte». Proprio in quel momento il signor Thornton entrò nella stanza. Era appena tornato da Oxford. Il suo abito da lutto rivelava la ragione che lo aveva portato là. «John», disse sua madre, «questa è la signora Shaw, la zia della signorina Hale. Mi dispiace dover dire che la signorina Hale è venuta a trovarci per salutarci». «Ah, ve ne andate allora», disse lui con voce cupa. «Sì», disse Margaret, «partiamo domani». «Mio genero viene stasera per accompagnarci», disse la signora Shaw. Il signor Thornton si allontanò. Non si era seduto e ora pareva esaminare qualcosa sul tavolo, quasi come se avesse scoperto una lettera non ancora aperta che gli avesse fatto dimenticare gli ospiti che erano lì. Non sembrò nemmeno accorgersi quando si alzarono per congedarsi. Ad ogni modo si avviò verso l'uscita per accompagnare la signora Shaw alla carrozza. Mentre l'attendevano, lui e Margaret erano in piedi uno accanto all'altra in cima alle scale ed era impossibile che il ricordo del giorno della sommossa non si insinuasse nella mente di entrambi. In quella di lui era associato ai discorsi del giorno successivo, l'appassionata dichiarazione di Margaret che non c'era uomo in tutta quella folla inferocita e disperata di cui non le importasse più di lui, e al ricordo delle sue parole di scherno la sua fronte si corrugò, sebbene il suo cuore palpitante traboccasse di sentimento. «No», si disse, «mi sono già esposto una volta e ho perso tutto. Lasciala andare. Che si porti via quel cuore di pietra e la sua bellezza, come è innaturale e spaventato il suo viso, nonostante i meravigliosi lineamenti. Ha paura che dica qualcosa che la costringa a pronunciare un duro rifiuto. Lasciala andare. Per quanto potrà essere una bella ereditiera, le sarà difficile incontrare un cuore più sincero del mio. Lasciala andare». E non ci fu alcun rimpianto né alcuna emozione nel tono della sua voce quando la salutò. E la mano offerta fu accettata con una risoluta calma e lasciata cadere con noncuranza come fosse stata un fiore morto e appassito. Tuttavia, nessuno in quella casa rivide il signor Thornton quel giorno. Era molto occupato, o così disse. Margaret era completamente esausta per quelle visite, al punto che dovette rassegnarsi alle cure, alle coccole e ai sospirati «te l'avevo detto» di sua zia. Dixon diceva che stava male quasi come il primo giorno che aveva saputo della morte di suo padre. Sia lei che la signora Shaw si chiesero se non fosse preferibile ritardare la partenza del giorno dopo. Tuttavia, quando sua zia propose con riluttanza a Margaret di aspettare ancora qualche giorno, quest'ultima venne scossa come dal fremito di un dolore lancinante e disse: «Oh, andiamocene, qui non riesco a trovare pace. Non mi riprenderò mai stando qui. Voglio dimenticare». Quindi i preparativi proseguirono e giunse il capitano Lennox e con lui notizie di Edith e del figlioletto. E Margaret trovò che la conversazione disinteressata e spensierata con qualcuno che, per quanto gentile, non dimostrava affetto o apprensione eccessivi, le faceva bene. Si alzò. E per quell'ora in cui sapeva che Higgins sarebbe potuto arrivare, riuscì a lasciare tranquillamente la stanza e aspettò in camera sua di essere chiamata. Disse lui entrando, «se penso a vostro padre che si è addormentato così, che mi potevano buttare a terra con un filo di paglia quando me l'hanno detto. E il signor Hale? Ho detto, quello che faceva il parroco? Già, hanno risposto. Beh, ho detto, se n'è andato l'uomo più buono su questa terra, staremo a vedere chi sarà il prossimo. E sono venuto a trovarvi per dirti dirvi quanto ero addolorato, ma quelle donne in cucina non volevano dirvi che c'ero, volevano farmi credere che eravate malata, ma non sembrate la ragazza che conosco. E state andando a Londra per essere una gran dama, vero? Non una gran dama, disse Margaret accennando un sorriso. Beh, Thornton ha detto, mi dice 1 o 2 giorni fa, Higgins, hai visto la signorina Hale? No, ho detto io. C'è un gruppetto di donne che non me la fa vedere, ma aspetterò il momento giusto se è ammalata. Io e lei ci conosciamo abbastanza bene e lei non c'ha dubbi che sono tanto dispiaciuto per la morte del padre, solo perché non posso andare a dirglielo. E lui mi fa: non ti rimane molto tempo per cercare di vederla, caro mio. Non vuole restare con noi un giorno di più e non può fare altro. Ha dei parenti ricchi e se la porteranno via e noi non la rivedremo mai più. Padrone, ho detto, se non la vedrò prima che va via, farò di tutto per andare fino a Londra a Pentecoste. Farò così. Nessun parente di nessun tipo può impedirmi di salutarla. Ma grazie. Lo sapevo che sareste venuta. Era solo per assecondare il padrone che ho continuato come se davvero pensavo che lasciavate Milton senza vedermi. Avete proprio ragione, disse Margaret. Mi fate onore. E non mi dimenticherete, ne sono certa. Se nessun altro Milton si ricorderà di me, sono certa che voi lo farete, e anche di papà. Voi sapete quanto era buono e gentile. Guardate, Higgins, questa è la sua Bibbia, l'ho conservata per voi. Me ne separo con dispiacere, ma so che avrebbe voluto rimanesse a voi. Sono certa che ne avrete buona cura e leggerete quello che c'è scritto per amor suo. Oh, lo potete ben dire. Se esistono gli scarabocchi del diavolo e voi mi chiedete di leggerli per amor vostro o di vostro padre, io lo farei. Che cosa sono questi? Oh, non mi piace per niente prendere soldi da voi, quindi non pensateci neanche. Siamo stati grandi amici, a parte quel rumore di soldi tra noi. Ma sono per i bambini, per i figli di Boucher, disse Margaret in fretta. Possono averne bisogno, non avete diritto di rifiutarli per loro. Non vi darei un penny, disse sorridendo, non pensate che ce ne sia uno solo per voi. Beh, mia cara, non posso che dirvi grazie, e Dio vi benedica, e amen. 44. Agio, non pace. L'assoluta tranquillità della casa di Harley Street durante la convalescenza di Edith successiva al parto fece molto bene a Margaret, consentendole quel riposo di cui aveva naturalmente bisogno. Le diede il tempo di comprendere il repentino cambiamento che la sua situazione economica aveva avuto negli ultimi 2 mesi. Si ritrovò improvvisamente reclusa in una lussuosa casa dove la semplice consapevolezza dell'esistenza di dolori e preoccupazioni sembrava non essere mai entrata. Le ruote degli ingranaggi della vita quotidiana erano ben oliate e giravano con una deliziosa continuità. La signora Shaw e Edith difficilmente avrebbero potuto fare di più per Margaret al ritorno in quella che si ostinavano a chiamare casa sua. E lei si riteneva quasi un'ingrata perché nel suo intimo sentiva che erano la canonica di Helston e persino la misera casetta di Milton con il padre sempre ansioso e la madre malata. E ogni piccolo accorgimento domestico dovuto alle ristrettezze economiche a comporre l'idea della sua casa. Edith era impaziente di rimettersi in forze per riempire la camera di Margaret con tutte le migliori comodità e i bei soprammobili di cui la sua era piena. La signora Shaw e la sua cameriera ebbero il loro bel da fare per riportare il guardaroba di Margaret a una certa varietà ed eleganza. Il capitano Lennox era tranquillo, gentile e signorile. Stava seduto con la moglie nel suo camerino per 1 o 2 ore ogni giorno, giocava con il figlio per un'altra ora e trascorreva il resto della giornata in ozio al circolo, quando non era invitato a qualche cena. Poco prima che Margaret avesse soddisfatto il suo bisogno di tranquillità e riposo, prima che iniziasse a percepire la monotonia di quella vita e la mancanza di qualcosa, Edith scese al piano di sotto e si riappropriò del ruolo che le spettava in casa, e Margaret ricadde nella vecchia abitudine di sorvegliare, ammirare e assistere la cugina. Era contenta di togliere di mano a Edith la responsabilità dei suoi presunti doveri, rispondeva ai messaggi, le ricordava gli impegni, si prendeva cura di lei quando non c'era nessun divertimento all'orizzonte e lei, di conseguenza, era portata a credersi malata. ma tutto il resto della famiglia era preso dalla piena attività della vita mondana londinese e Margaret veniva lasciata spesso da sola. In quei momenti i suoi pensieri ritornavano a Milton con la strana consapevolezza del contrasto tra la vita di lì e quella di qui. Stava iniziando a non poterne più di quell'agiatezza piatta in cui non servivano né sforzo né impegno. Aveva il terrore di diventare insensibile, come addormentata, fino a dimenticarsi di tutto quello che c'era al di là della vita che la avvolgeva con la ricchezza. Potevano magari esserci lavoratori instancabili anche a Londra, ma non li incontrava mai. E gli stessi domestici vivevano in un mondo sotterraneo, a sé stante, e lei non ne conosceva né le speranze né le paure. Sembravano cominciare a esistere nel momento in cui il padrone o la padrona avevano bisogno di loro per qualche desiderio o capriccio. C'era un insolito vuoto nel cuore e nella vita di Margaret, e una volta, accennandolo vagamente a Edith, quest'ultima stanca per aver ballato troppo la sera prima, le aveva fatto una languida carezza sulla guancia, mentre Margaret le si sedeva accanto come facevano un tempo, su un poggiapiedi vicino al divano dove la cugina era distesa. Povera cara, disse Edith, ti sentirai triste perché ti abbandoniamo sera dopo sera proprio nel periodo in cui tutto il mondo fa festa, ma organizzeremo presto le nostre cene non appena Harry ritorna dal suo giro. A quel punto avrai anche tu un po' di piacevole svago. Non mi meraviglio che ci si avvilisca, povero tesoro. Margaret non sentiva che le cene sarebbero state un toccasana, ma Edith si vantava delle sue feste così diverse, come diceva, dalle superate cene da ricca signora che si facevano sotto il régime della mamma. E la stessa signora Shaw sembrava provare per i diversi preparativi e per la cerchia di conoscenze, diverse in base ai gusti del capitano Lennox e signora, la stessa soddisfazione che provava per le feste più formali e noiose che era solito organizzare in prima persona. Il capitano Lennox era sempre molto gentile e fraterno con Margaret. Lei davvero stravedeva per lui, tranne quando si preoccupava troppo per gli abiti e l'aspetto di Edith, perché voleva che la sua bellezza facesse colpo su tutti. Allora tutta la Vasti, la regina Vasti che compare nel libro di Esther e si ribellava al volere del re ed era quindi condannata e giustiziata, tutta la Vasti che lateva in Margaret si risvegliava e lei riusciva a stento a trattenersi dall'esprimere i suoi sentimenti. La giornata tipica di Margaret si svolgeva così: qualche ora di tranquillità dopo una tarda colazione, un pasto a un orario insolito che persone stanche e mezze addormentate consumavano svogliatamente, ma al quale, e per tutta la sua protratta durata, ci si aspettava che fosse presente, in quanto, subito dopo, si sarebbe tenuta la discussione sui vari programmi. E sebbene nessuno la riguardasse, le era richiesto di partecipare comunque, anche se non poteva prestare alcun utile consiglio. Un'infinita serie di bigliettini da scrivere che, come al solito, Edith lasciava a lei, complimentandosi affettuosamente per la sua eloquenza du billet. Una partitina con Sciolto al suo rientro dalla passeggiata mattutina e poi la cura dei bambini mentre la servitù mangiava. Un giro in carrozza o qualche visita e qualche appuntamento da prendere per cena o per la mattina seguente per la zia e i cugini che lasciavano Margaret libera, è vero, ma piuttosto annoiata per l'inattività della giornata, con il risultato che si ritrovava triste e cagionevole. Attendeva con impazienza e con un particolare interesse che teneva celato la sua cara Dixon di ritorno da Milton, dove fino a quel momento la vecchia domestica era stata impegnata a chiudere definitivamente gli affari della famiglia Hale. Al suo cuore era sembrata un'improvvisa carestia, quella completa interruzione di notizie sulle persone con cui aveva vissuto così a lungo. Era vero che Dixon, nelle sue lettere riguardanti le questioni in sospeso a Milton, citava di tanto in tanto un'opinione del signor Thornton su cosa fosse meglio fare con la mobilia o su come comportarsi nei confronti del padrone della casa di Crampton Terrace. Tuttavia, era soltanto sporadicamente che veniva fuori quel cognome o qualsiasi altro cognome di Milton in realtà, e una sera Margaret, seduta nel salotto dei Lennox, teneva in mano le lettere di Dixon senza leggerle, ma stava riflettendo sul loro contenuto, ricordando i giorni andati e immaginando quella vita frenetica alla quale la sua era stata sottratta senza che nessuno se ne accorgesse. Si chiedeva se tutto in quel vortice avesse continuato a girare come se lei e suo padre non fossero mai esistiti, domandandosi se nessuno in tutta quella folla sentisse la sua mancanza. Non Higgins, non stava pensando a lui, quando improvvisamente venne annunciato il signor Bell, e Margaret infilò in fretta le lettere nel suo cesto del cucito e si alzò, arrossendo come se stesse facendo qualcosa di proibito. Oh, signor Bell, non mi aspettavo di vedervi. Ma spero mi concederai il tuo benvenuto insieme a quel grazioso sussulto di sorpresa. Avete cenato? Come siete venuto? Oh, lasciate che vi ordini qualcosa da mangiare. Sì, se mangi qualcosa anche tu, altrimenti, come sai, non c'è nessuno che si preoccupi di mangiare meno di me. Ma dove sono gli altri? Sono andati a cena fuori? Ti hanno lasciata sola? Oh, sì, ed è così rilassante. Stavo solo pensando, ma volete correre il rischio di non cenare? Non so se ci sia qualcosa in casa. Beh, a essere sincero, ho cenato al mio circolo, solo che non cucinano più come una volta, quindi pensavo che se avevi intenzione di mangiare, potrei provare a completare la cena. Ma non importa, non importa. Non ci sono 10 cuochi in tutta l'Inghilterra di cui ci si possa fidare per le cene improvvisate. Se le loro capacità e i loro fuochi tengono testa, i loro temperamenti no. Potresti prepararmi del tè, Margaret. Dunque, a che cosa stavi pensando? Stavi per dirmelo. Di chi erano quelle lettere, cara figlioccia, che hai nascosto così velocemente? Solo di Dixon, rispose Margaret diventando molto rossa. Caspita, tutto qua? Indovina chi è salito sul treno con me. Non so, replicò Margaret, determinata a non rispondere all'indovinello. Il tuo, come lo chiami? Qual è il termine giusto per il fratello di un cugino acquisito? Il signor Harry Lennox, chiese Margaret. Sì, replicò Bell. Lo hai frequentato in passato, vero? Che tipo è Margaret? Tanto tempo fa mi piaceva, disse Margaret, abbassando lo sguardo per un momento, e poi guardò dritto davanti a sé e continuò nel suo modo naturale. Sapete che abbiamo continuato a scriverci da quella volta di Frederick, ma non lo vedo da quasi 3 anni e può essere cambiato. Come vi è sembrato? Ma non lo so. Sul momento era così impegnato a cercare di capire chi fossi e poi che tipo fossi, che non ha mai lasciato intendere che tipo fosse lui, anche se in realtà quella velata curiosità su che sorta di uomo fosse il suo interlocutore non è stata una bella prova e ha mostrato chiaramente il suo carattere. Lo definisci attraente, Margaret? Oh no, no di certo. E voi? Io no, ma pensavo che magari tu sì. Viene spesso qui? Beh, immagino di sì, quando è in città. È stato in giro da quando sono arrivata. Ma, signor Bell, arrivate da Oxford o da Milton? Da Milton? Non senti l'odore del fumo sui miei abiti? Certo, ma pensavo che magari fosse dovuto agli antichi edifici di Oxford. Oh, su via, sì, una donna giudiziosa. A Oxford sarei riuscito a tenere a bada tutti i padroni di casa del luogo e ad averla vinta con la metà dei problemi che mi ha dato il tuo padrone di Milton, che per giunta mi ha sconfitto. Vuole che teniamo la casa per un altro anno a partire dal prossimo giugno. Fortunatamente il signor Thornton ha trovato un inquilino. Perché non chiedi come sta il signor Thornton, Margaret? Si è dimostrato un amico molto premuroso, te lo assicuro. Mi ha sollevato da più della metà delle preoccupazioni. E come sta? E come sta la signora Thornton? Chiese Margaret frettolosamente e sottovoce, sebbene cercasse di parlare forte. Suppongo stiano bene. Sono stato a casa loro finché le incessanti chiacchiere sul matrimonio di quella giovane Thornton non mi hanno costretto ad andarmene. Era troppo anche per lo stesso signor Thornton, anche se è sua sorella. Andava sempre a chiudersi nel suo studio. Sta superando l'età per interessarsi a queste cose, sia che le consideri primarie che secondarie. Sono stato sorpreso di vedere l'anziana signora finire nella corrente e venire trascinata dall'entusiasmo della figlia per fiori d'arancio e pizzi. Pensavo che la signora Thornton fosse una persona di carattere. Oh, fingerebbe qualsiasi sentimento per coprire le debolezze di sua figlia, disse Margaret in tono cupo. Forse è così, l'hai osservata bene, vero? Non sembra che tu le piaccia molto, Margaret. Lo so, disse Margaret. Oh, ecco il tè finalmente, esclamò come sollevata. E con il tè arrivò anche il signor Henry Lennox, che aveva raggiunto Harley Street a piedi dopo una tarda cena e si era evidentemente aspettato di trovare suo fratello e sua cognata. Margaret sospettò che fosse grato quanto lei della presenza di una terza persona, poiché era il loro primo incontro dall'indimenticabile giorno della proposta di matrimonio e del suo rifiuto a Helston. Non sapeva cosa dire all'inizio e fu grata di doversi occupare di apparecchiare il tavolo per il tè, che fornì a lei una scusa per il suo silenzio e a lui un'opportunità di riprendersi. Infatti, a dire il vero, si era quasi sforzato di andare a Harley Street quella sera, prevedendo di dover superare un imbarazzante incontro, imbarazzante persino in presenza del capitano Lennox e Edith, e doppiamente imbarazzante ora che lì si ritrovava Margaret come unica signora presente e come persona a cui dover rivolgere naturalmente e necessariamente, gran parte dei suoi argomenti di conversazione. Lei fu la prima a riacquistare una certa padronanza. Iniziò a parlare della prima cosa che le venne in mente dopo essere arrossita di timido imbarazzo.